per tutti. Se vuoi salvare il programma sul desktop, vai su, lo salvi su desktop o su una cartella dove vuoi tu, su documenti, dove vuoi tu, no, ti stai dicendo dove lo vuoi salvare l'installazione di questa cosa, capito? O se no fai avanti avanti e lui lo installa dove già, cosa c'è scritto già lì sul programma, perché lo vede in automatico. Questa finestra è dove salvare questo programma. E lui adesso c'è scritto sfoglia. Adesso io provo a cliccare su sfoglia e quindi mi dà tutta una serie di posti dove andare a salvare questo programma, così. Ecco, fai sfoglia, trova desktop. Mettitelo in una cartella che è sul desktop, oppure ti fai, fatti una cartella sul desktop, lo sai fare, sì? Sì, sì, però me lo salvo in documenti, perché me l'ha messo già, quindi devo fare su documenti, me lo faccio, e quindi adesso cosa devo fare, lo devo aprire. Scusa, ero distratto tu. Dimmi... Allora, il programma che vado a salvare, me lo salvo in documenti. Cosa devo fare? Devo cliccare apri? Sì, però in documenti lui poi ti fa vedere altri percorsi, perché nei documenti tu sicuramente hai altre cartelle. Ecco perché ti ho detto fai tappo adesso su una parte del desktop, fai nuovo, cartella, e gli ci scrivi SDR, capito? Così quando lui salva tutto su quella cartella, tu non fai altro che dal desktop andare direttamente lì ogni volta che devi aprire il programma. Se no devi andare su accessori, documenti, nei documenti l'avrà salvato da un'altra parte, capito? Ok, ho creato la nuova cartella, quindi ci scrivo qua SDR 2832. Scrivici quello che vuoi, chiamata ricevitore, fai e scrivici quello che vuoi, così sai già dove trovarla, capito? E poi quando fa l'installazione gli dici di salvare in quella cartella lì. Ti fa andare sul desktop, cioè vai sul desktop, quando lo schiacci sfoglia, vai sul desktop ti apre di nuovo un'altra pagina e ti fa vedere tutto quello che è sul desktop e tu trovi, cerchi la cartella appunto SDR o come gli ha dato il nome. Dove c'è scritto richiesta file, richiesta del file, nel momento di dare il permesso. però non mi dice salva, capito? Mi riporta lì al passaggio che ho appena chiuso, ma non mi dice salva, non mi dice di salvare, individua file, cerca in, come che io... Ti scrive apri, ogni volta che fai ti scrive apri. Tu devi fare tutto apri, apri finché non ho fatto tutto lì, poi ti rimanda direttamente con la cartella. Lasciamo questo passaggio importante, perché vorrei andare ad aprire quel programma Davide. Sì, però se la chiavetta non è installata, se non l'hai installata la chiavetta, non te la fa vedere su Zadig, capito? Quello è. Allora tu hai messo il dischetto. Probabilmente, giusto? Allora, prova a aprire Zetic, vediamo un po'. Ascolta, io adesso sono ritornato sul dischetto e sto per confermare il driver RTL. Ok, io ho cliccato lì sul driver e mi dice. Adesso io clicco sull'icona che c'è, sta caricando, ok, programma di installazione, ok, di muovere completamente l'applicazione selezionata. No, così stai di nuovo disintegrando. Ok, io vengo. Aspetta che vado a aprire proprio un disintegrando che l'ho salvato nel tempo. Ok, ho aperto disintegrando. Ok, adesso in alto a sinistra c'è scritto device, device, a fianco c'è scritto option. È ok, sì. Adesso ho digitato e adesso c'è scritto little devil, signor scomputite pareti. No, ascoltami bene, perché se sbagli qua ti disinstalli il mouse o qualcosa. Stai ben attento. Su opzioni, clicca su dove c'è scritto little device, ok? Ti dà una scritta. Stai attento a quello che ti dà, perché ti può disinstallare qualcosa. Se poi, quando hai aperto lì, vai sulla destra, a fianco a edit, c'è scritto edit, cioè clicca sulla tendina lì. Allora, periferica di attivazione di massa USB. Tutto sul lato destro, poi c'è edit, e lì c'è la freccetta, clicco sulla freccetta e mi dà plugin interfacce 0, plugin interfacce 1. No, non cliccare in nessuna di quelle, devi cliccare solo su Realtek 28321 device interface, capito? Solo se trovi quella scritta lì, solo su quella devi andare a cliccare. Ripetimela. Devi aver scritto, se il computer, se la chiavetta l'ha installata bene, devi trovare la chiavetta con il nome Realtek 28321. Una cosa del genere comunque. Non cliccare le altre, eh? Allora, sì, lì l'ho chiusa quella finestra e sto leggendo la schermata, tutto quello che c'è in questa schermata. Allora, sulla voce driver c'è scritto USB Sector U51-2600.0 USB DD03FO4207. Poi c'è una freccia rossa e a fianco c'è un'altra sita WIN USB U617600.16385. Poi ci sono due freccette, una verso l'alto e una verso il basso, e poi c'è scritto replay driver, sarebbe per far partire il tutto. Sì, tu mi devi leggere però solo quello che ti scrive quando apri la tendina, basta. Cioè, quando tu apri la tendina, a fianco a edit, c'è quella freccetta verso il basso, clicca lì, ti apre un'altra cosa. Lì ci deve essere scritto il nome della chiavetta, se non c'è è perché non è installata. Oh, Luca! E un attimo. Brecchi? Un attimo. Ah, io fammi il caso, come fa a portare? No, non c'è allora, non c'è. Non c'è, non l'ho installata, lascia stare, stasera mi porti il tutto, te lo faccio io qua a casa, dai. D'accordo, va bene, lascia stare, non cliccare niente, se no ti disinstalli qualcosa, perché quello installa il driver ma ti disinstalla quello che hai già installato. E c'è stato un break, non so, Gianni, avanti. Hola. Mi avanti? Su Marco Mari, ma buonasera. E con chi appare che stai scendendo, l'ufficio? Io, sempre lo stesso, perché? Vai. Quello sempre con lo stesso, adesso non è a radio che vai a va. È sempre lo stesso, sarà che la giù butto la fare di metallica, non è il gioco, ma non credo. Questa volta avessi comprato un Kenzo del gas. Infatti ti ho detto, forse gliel'ha prestato Claudio, no, non ci credo, dai. Magari, gatto, magari, guarda, ti invidio, perché tu ce l'hai, non lo usi, cazzo, io non ce l'ho. Io non lo uso perché non ce l'ho qua. Ah, non ce l'hai, pensavo che non lo usavi per altri motivi. Ma è sempre il mobico, ho già. L'ho mandato a fare revisionare un po', dai, a fargli fare un po' di lavori. Hai fatto bene, perché come ti ho già detto, io ti ascolto meglio col baracchino che con quello, capito? Ma doveva essere solo riportato come, diciamo, dalla casa, dai, non gli faccio più le modifiche di nulla, lo lascio con i valori della casa e boh. Ah, ho capito, ma non esce bene solo con il così, vabbè. Ognuno fa come crede, naturalmente. Guarda che c'è Antonio, non so se c'è fatto un altro becco o non lo so, c'è Antonio, K2. K2, avanti, buonasera. E cosa stavate parlando, Greco? No, perché ha preso quella chiavetta vicino a Vittorio, ma non riesce a installare i driver e i software. Capito, bisogna che mi porta il computer, passarglielo, faccio qua a casa. Qua c'è il cavatosta, è un po' difficile fare queste cose, perché io di computer non ne capisco niente, capito? E quindi mi stava aiutando un po' a fare questa installazione, ma per me è proibito. Sì, vabbè, se impari ci vuole poco a farlo. Tutto è magari seguire una volta e poi lo sai fare, non è che ci voglia la laurea, no? Però bisogna anche essere portati per il computer. Io ho mio figlio che non sapeva manco leggere ancora, e lui già girava le pagine, cambiava grafico della musica, si trovava i siti che voleva di Pokémon, eccetera, eccetera, e non sapeva leggere. Ma loro, per loro è facile, boh, sembra che nascano, che sappiamo già fare tutto. E mia figlia è lo stesso, la piccolina è la stessa cosa, adesso fanno cose che io dico, caspita, ma il mio computer sa fare anche queste cose, mi manca bocca aperta. Ma in giro di secondi, io ci metto una giornata a fare quello che... quel pochettino che riescono che fanno loro, capito? Ma il discorso già è che io non ho passione, la verità non è che mi piaccia tanto, e non lo accendo quasi mai se non per leggere qualcosa, e quindi le cose magari sul momento qualcosa riesco a farla, poi sto tanto tempo senza usarlo e me ne dimentico, quindi si può iniziare da capo. Lo so, perché non c'è più una testa, nel senso che non ti ricordi più le cose, i passaggi, le cose, basta segnarteli, una volta che tu li sai fare, te li segni, poi se ti dimentichi vai a riguardarli, perché oramai siamo già cresciutelli e quindi la memoria non è più la stessa. Già lo credo, c'è anche quello. E poi io quando sto troppo al computer a leggere, che ne sono, mi si stacca la vista, capito? E allora dopo un po' devo mollare. Infatti io entro subito nel pallone, io a Luca gli stavo dicendo, e Luca io sono già nel pallone, quando leggo due o tre cose, poi soprattutto questi programmi qua che sono scritti inglese, sono a decifrare, a capire, poi c'è una paura di sbagliare, capito? E allora entro subito nel pallone, mi stanca e basta, lascio perdere tutto. Vabbè, vabbè, meno male che già c'è l'istruttore. Da avanti, istruttore! Ma tocca a me da cercare un tu, già lo faccio io. Una volta è fatto, poi non devi fare aprire il programma, e Zedig anche, lo devi aprire ogni volta, però è tutto a portata di mano poi. Oh Gianni, e allora? No, hai fatto bene a darlo già, cioè a darlo da sistemare, perché la verità io non capivo cosa dicevi, perché eri talmente vibrante, non si capiva che modulazione era, troppo spinta, non lo so. No, c'è nulla, è solo da registrare, forse è troppo alto come volume, eccetera, eccetera, e quindi è per quello. È solo da portare con i parametri originali, l'ho dato a Fabrizio, adesso me lo controlla, vediamo un pochettino come esce. L'hai dato a Fabrizio, ehi, qualcuno si offenderà. E perché si deve offendere? Scusa, non è mio l'apparecchio, è il freccio più lungo. Giusto. Pagato il rometro. La vessi io qua, guarda, a questa altezza. Poi c'è un bel riceve anche bene, un bel ricevitore quello. Questo qua. Questo è un bombo. Questo qui è un apparecchio di lusso davvero. Oh, sì. E anche quello che stavo guardando io è bello, caspita, però lo smetto, non mi piace di questo. Invece c'è quello della versione 9 mi piace, vedi. Cosa stai usando? Adesso. E io. E il MB4 con Mobicon. No, stavo dicendo che mi piace lo smitter dell'S9. Ma il baracchino di cui stavamo parlando ieri, ti ricordi? Quello americano. Io ho capito, quello in forma allungata. Caspita, è bello quello. Poi c'è un menu, schiacci la pomella centrale e ti fa vedere tutto il menu, capito? È un bel apparecchio. Poi lo dovrebbe fare, quindi uno smitter dell'S9, bello così grande, fondo perfetto. Sì, sì. Cavolo, cavolo. Solo che ci vogliono i soldi per queste cose, troppi soldi ci vogliono. Se mi prende di nuovo la cosa, la mania di comprare, di fare, io già due cose ho comprato, ma basta. Il microfono e l'alimentatore, che poi non ci voleva perché sono riuscito ad aggiustare l'altro. Sì, infatti io ti ho detto, anche mi dice, ma serve, ma se pensiamo a tutto quello che servirà, allora dobbiamo farci tutto doppio, triplo, capito? Io alimentatore, guarda, ne ho trovato anche uno ieri dentro il mobile, insieme a questo da 25 ampere, questo è quello della Fayette, che c'ha i due strumentini illuminati, che ti segna il vostro gli ampere, e la manopolina che per aumentare l'amperaggio. E ne ho trovato anche uno dentro il mobile da 7 ampere addirittura, nuovo, non è nuovo, neanche un grafico. Capito. E sicché ho messo questa adesso, quella da 25 ampere, abbiamo sostituito la ventolina sua originale a chi faceva troppo casino e gli ho messo una di PC portatile. Io forse fatto in te avrei preferito spendere 10 euro e ne avrei risparmiato 70 in pratica, perché gliel'avrei restituito, telefonato, restituito. Già senza nessuna offesa, con una scusa anche che ti è arrivato un pagamento improvviso, sai com'è. Sì, e così fa la figura della casa, del cavolo, non se ne mandano più in contrassegno, no. Siccome questa è una ditta nuova dove sto acquistando, poi tra l'altro un amico di Claudio, il cazzo di girare le scatole, fare brutte figure e farle fare agli altri. L'ho praticamente ritirato e l'ho piazzato nella stazione. L'altro che c'era, c'aveva una lampadina fulminata anche. Ieri mi sono attentato, l'ho aperto, gli ho cambiato la lampadina, l'ho tutto quanto soffiato, pulito, passato lo spray per contatti, il coperchio l'ho preso anche se non c'era bisogno, gli ho dato una rinfrescata, l'ho verniciato e è perfetto. No, allora è fatto bene, non sapevo che... Giusto, mettetelo in vendita però già, perché poi passa il tempo e se lo vuoi vendere non riesci più, perlomeno a quel prezzo non lo vendi intanto, perché comunque anche se scrivi di nuovo la gente pensa sempre naturalmente che è sempre, pur sempre un usato, se te lo vuoi vendere, se no non lo saci. Oh, se vendo, vendo l'altro, quello da 10 ampere, questo qui me l'ho tenuto perché 30 ampere mi serve. L'altro invece 10 ampere va benissimo perché tutti i 10 li prende in pieno, è di quelli con dissipatore, con trasformatore interno, con gli strumenti illuminati, eccetera. Invece questo c'ha uno strumento solo che fa due cose, voltmetro e amperometro, però cliccando un tasto fa il voltmetro, cliccando in giù fa il wattmetro. Ah no, è di questo da mio. Ma io sto dicendo i modelli nuovi, quindi già, quelli che pesano un chilo. Questo che c'ho io 25 ampere della Fayette, c'è due strumenti illuminati, volte ampere separati, con due lancette separate. No, questo è Uxi. Uxi, boh. È la stessa marca del microfono, il microfono che ho preso, Uxi. Dimmi il modello che me lo guardo su internet. Devo guardare se lo vedo. Ah, ma non ti è arrivato ancora? Sì, ce l'ho in stazione già. Dimmi se riesci a dirmi il modello. Oh, XI, così è. Aspetta, non mettere gli occhiali. Antonio! Ehi Luca, stavo guardando. Allora è Oxy. H-O-X-I-N Oxin H-O-X-I-N X-I-N N Adesso bisogna finichitta Modello D-D-D Torino Domodossola 1-4 Sassari 3-0. Abbiamo preso il tuo, ma qui non ho bisogno. Perché io uso il Vitalis. Duro, perché è dura. No, duro è che duri. Allora, Dioxin TD14SS000. Cazzo. A te piace duro che duri o duro che dura? No, non me la niente. HOXIN TD14SS000. Aspetta, mi rimetto gli occhiali perché avevo già messo tutto a posto. Allora, Oxin è scritto H-O-X-I-N, Oxin. Quello sì, Oxin, Napoli finale. Poi ho scritto Torino Domodossola 14-USS-000. Allora è 14, Sassari 3-0, non 000, 3-0. Ah, io ho capito di mettere 3-0. Su Raduk. Abbiamo fatto le 30 ampere switching eccetera eccetera eccetera, vediamo un po' come Media Globe ce l'ha anche. Ah sì, c'è uno strumento a solo, sì, poi l'accendi sigari, ho capito qual è. Quanto ti è venuto già da quello là? 62 con le spese di spedizione. E lo stesso prezzo di Media Globe. Con le spese di spedizione o senza? Senza il 52. 10 euro di spese di spedizione, 62. Sì, mi sta aprendo gli altri negozi che chi lo sta vendendo. No, io c'ho l'altro modello, il tuo è più alto mi sembra del mio. Sto guardando altri venditori. 54,90, c'era quest'altro, Electronic Megastore. Sì, vabbè, ma più o meno è quello il prezzo, dai. Ma mi la fuggo, intanto è già piazzato sotto, ci sta anche bene, ci ho messo la colonnina grande sotto, attaccata col mio, come si chiama? Con il nastro che attacca da due parti, o che cacchio si chiama, non mi viene il nome. Biadecito. Biadecito, grazie. Non mi sono infappiato, non riuscivo a dire il nome. Cava, attaccato con l'adesivo e guarda, ci sta veramente bene, la colonnina è bella grande, ci sta sopra, tranquilla, non si muove, è tutto fatto a regola d'arte. E ti dirò che regge bene, si è attaccato un bel po' di roba, regge, l'ho provato in mille maniere. Luca, Lucia, ripigatela. Ma state controllando, già cioè, un VE1, dai. Un alimentatore che VE1. Ah, un alimentatore, se fosse qualche apparecchietto VE1. No, no, un alimentatore, siccome a me mi si è guastato l'alimentatore, non funzionava più, l'ho ordinato subito. Poi l'ho aperto con calma, l'ho guardato, l'ho messo a posto, adesso ce li ho tutti e due. Meglio così, andiamo, ma buona, io mi assento. Ci sentiamo magari dopo, se ci siete. Va bene Luca, ciao. Ciao Luca, ciao. È sempre lo stesso, c'è un radio shop che lo vende a 58,50. Beh, ma questo si aggira sempre su quel tanto lì, dai. Capito, poi questo qui è un nuovo negozio dove mi sto servendo e mi sono molto, molto gentili col cliente, ho fatto questo, sono molto gentili sia lui che la moglie, tutti e due, addirittura senza chiedergli nulla lui, mi hanno mandato il numero per la tracciabilità del pacco, te lo mandano immediatamente, come danno il pacco alla, anche così, danno il pacco all'autista, ti mandano subito la tracciabilità e poi ti scrive, questa è la tracciabilità, seguila, mi raccomando, fammi sapere, così io dopo li scrivo, il pacco l'ho ricevuto, ah, va bene, ok, spero che sia contento, ma sono gentilissimi, chi te lo fa? Pochi te lo fanno. pochissimi, ti da fare, c'è la ventolina dietro quella, meglio, meglio così non lo senti. Sì, ma a parte quello, si attacca solo quando raggiunge la temperatura, se no non si attacca, capito? Questo quello lì è fisso, gli altri ce li ho fissi perché sono grossi, sono da 50 ampere. Ah, no, questo qui si attacca, quando io lo modulo si aumenta la velocità, quando è in ricezione si abbassa la ventola. Sì, capito? E beh, per forza fa così, perché assorbe di più e scalda di più in trasmissione. Vabbè, normale, no? E questo qui, l'altro era quello che ho tutto rifinito, gli ho cambiato la lampadina, riverniciato il coperchio e tutto quanto, quello lì è l'unico che ho col trasformatore interno, gli altri sono tutti quanti switch. No, io ho solo questo switch, gli altri sono con lo stesso con alimentatore interno, ne ho 4-5, da 3 a 5 ampere, 5-7 ampere, 2-3 ampere, capito? No, quel modello che ho io è la Fayette, e allora, dovrebbe costare la stessa cifra di quello, credo. Allora, l'Oxin per esempio SS830 viene 75 euro, come il mio, sarà il mio la Fayette. Questo fa per 30 ampere, l'Oxin. Anche il mio è 30 ampere. E ne viene, costano così qua. Costano così. Ah, se che cosa ce l'ho? Ce l'ho sul Midland, non è che... non è che praticamente abbia apparecchi grossi. C'ho il Midland, 5 watt, quello omologato. Lo attacco lì, quindi cosa deve pilotare? Che deve pilotare cose, chissà che cosa. Se andava al Midland, ne avanzava pure con 10 ampere, fatti un conto. Luca, scomparso. Ehi, no, sto cercando il modello mio, via. Sì, ma questo qui è nuovo, il nuovo tipo, capito? Nuovo modello, ma anche lei. Altro che lui ce l'ha su un TS2000 e non le roccorica per niente. Proprio ci arriva bene. Sul TS2000 lo usa, dice ce l'ho già un bel po' di tempo, appena uscito. No, lo fanno molto bene, però almeno io lo usavo con 440 e con 140, davvero, vanno molto bene. A questo qua però mi si è bloccata la lancetta, no? Più di un paio d'anni fa. La lancetta di Volt si è bloccata a metà e non è più a casa, e non è più scesa. Mentre quella dell'ampere va benissimo. Cosa non ti ho capito? Che a questo mio si è bloccata da un paio d'anni fa la lancetta degli Volt. Si è bloccata in mezzo proprio, però sta funzionando, funziona benissimo, intanto no, non è che la guardo. No, stavolta se allora, l'alimentatore la Fayette SS815, SS che è uguale a, no, questo qua è 15 ampere, vediamo un po', 25 ampere. 25 ampere, vediamo un po', cavolo, c'è il 15 ampere qui, E comunque, adesso me lo allinea bene, tutto che sia solo quello lì, che me lo allinea bene, gli faccio anche tutte le tarature delle frequenze e cose, ma anche se non ne ha bisogno, ma le lo faccio controllare lo stesso. E me lo faccio portare in linea come quando esce dalla fabbrica. Sì, fai bene già. Fai bene. Cazzo, questo qua il mio viene, a Senato viene ancora oggi, 64 euro. Che dolore. 64 euro, 25 ampere. Non vai da dove. E qual è la Fayette? Come cosa c'ho io l'alimentato? Porca miseria, sta tenendo un prezzo alto ancora. Costa di più del mio, che il mio è innovativo, c'è tutte queste cose, strumento doppio, dice ce n'è uno strumento ma vale per due, perché lui prima in un tastino va dal voltmetro all'amperometro. Ah no, il mio ne ha due, separati, e la manopola per aumentare l'amperaggio, e poi c'è una lucetta dove c'è scritto warning in caso di pericolo, cose del genere. La mia è di lustro, lo dico cosa c'è. Cioè la presa c'è di sigari, cosa che lasciano tutti. Noise blanker, che praticamente serve per i rumori di sottofondo, cosa che il tuo forse non ha. E poi c'è l'attacco dietro, cosa che piace a me così, perché con gli attacchi dietro non ti danno fastidio i fili davanti, cose devi far passare sotto. Invece l'attacco dietro è molto più pratico. Sì, no, c'era anche questo dietro. Sta dietro, davanti c'ha solo la monopola per regolare gli ampere e basta. I volt? Sì, e basta, solo quello lì. C'è scritto volt ADG. Allora io inizio l'ufficio 13.8 e quello che c'è è il noise blanker, che serve proprio per i rumori, c'è un filtro per i rumori che può dare l'alimentatore, capito? Più filtro i rumori della ventola e tutte queste cose qua. Silenzioso? Sì, guarda, se si attacca la ventola io non lo so, perché non l'ho mai sentito rumoroso. Non si accende subito, il mio stesso non si accende subito la ventola. La senti? Ma no, vedi, aspetta che la avvicino. Capito? Ma si accende dopo 5 minuti però comunque, che sto modulando. Però non si sente molto. Perché questa qua gliel'ho cambiata, gliel'ho messa una di PC portatile, che sono silenziosissime. Cazzo, quella che c'era prima, il mio casino di fazia. Invece io il rumore della ventola l'ho risolto in un'altra maniera, ho aperto l'alimentatore, gli ho smontato la ventola, gliel'ho tutta pulita dalla polvere che c'era la lametta nelle pale, c'aveva la lametta proprio. E vedo tutta pulita bene, adesso è di lusso davvero. Lo fanno, è come il computer lo stesso, il computer aspira un sacco di polvere, tutte queste cose, così che... Vediamo un po' se c'è ancora Antonio. Sì, sono qua, mi ascolto, eh. Ah, ci sei ancora, sì. Antonio, quando viene stasera? Sto cercando di adattare, forse ho trovato il tutto, forse, così poi te lo porto e te lo faccio vedere. Deve salire, perché? Lo vuoi? No, così ho detto, stasera deve salire. Ecco, il computer è questa chiavetta. E con la crema molta ne ha ancora. Ma cosa te ne ha te? Oh, vabbè, cosa strano, l'ho finita proprio adesso. Me lo posso immaginare, ve la ginco, la sa di crema. Ah, vera. No, già ne ho ancora. Non ne bevi 2 o 3 bicchieri, se sei in compagnia, se sono bicchieri me li bevo. No, non mai nulla. Sono in compagnia che già lo bevo qualche cosa, non è che... Qui ti attira, no? Dopo il primo, ma a sorte quel dolce che ti lascia in bocca. È quello che fa male a noi. Come... più cosa il dolce, porca miseria. È vero, è vero. Ecco. Le passe si prendevano nelle occasioni, mica come certe case che si prendono, non so ieri che cosa, no, nelle occasioni, a Natale, a Pasqua, comunque, ecco, nelle occasioni c'erano le paste, la torta, eccetera, eccetera. Io non sono stato ingordo di queste cose, le mangiavo sì, ma non è che mi attiravano pitta. Beh, a Pasqua, base, mi rimane una... Forse si è pensato a fatti di frigiori, cioè quelle che tu le frittelle sono quelle che... Ah no, ma tu stai sempre aspettando per la cosa, la sfida, vuol dire? Io lavoro al che è del gruppo SISA, però nego si soltura il marketing, granai, eccetera, eccetera, sono diversi soci, capito? Io non lavoro alla SISA centrale, io ho i nostri negozi. Ha una delle casse lì a Porto Torres, dentro il negozio e tu eri alla cassa a fianco, stavi parlando. Ecco. Cava, cava. Sì, io lavoro lì a produttore, se non sono. Cassa, cassa. Vediamo un po' così. Sei bene oggi. Ah, fa accompagnare a Marco al teatrino, sì, e mezza, stanno facendo teatro. Ecco, vedere se c'è. Se c'hanno ancora con le canne da pesca. Perché me la facciamo? Si sono passato a. Addirittura io li ho visto anche da. Si chiama, da quello più avanti, sai, come canna, perché c'è tutti gli anelli, tutto quanto, proprio bella veramente. Enorme ma bella. No, io più avanti, quindi dentro un cassettone di canne fisse. Perciò un tre mesi che non c'entro lì. Cazzo da un casino, pura. Ma è un mattinato, portandosi la roba che trova la discarica. No, ma sempre la canna da pesca. È bello così lungo, se no me ne posso lungo. E sai cosa ti metti? Mi pare me la compri io. Quella lì mi piace, quella lì è da lancio. Sì, sono da sercati. E te ricordi la nuova arancione che c'era? Quali erano resistentissimi? Adattati a quelle che fanno adesso, diciamo, quelle in vetro resina con fibra di carbonio, che sono molto più leggeri. Lo so. Allora, carbonio sono il fucile adesso. Quello in legno anche. No, carnata in carbonio non mi compri lì, la vita. Ci sono. E uno passeggiando col sole, passeggiando con la china, giù, boom, di golpo, te la vuoi minare. Perché? Ma la cartellina ha preso. La cartellina, in carbonio. No, in oro era. C'è il robo. E nella, per dire che c'è, mi è Luca, o non lo sai. Ma questo non lo sapevo. Il carbonio so. I conduttori, addirittura, posso dire perché sei morto, io ho conosciuto un radioamatore che ci aveva lì. Aspetta. E abitava in via di Scorpioncino, non so se ti ricordi di Scorpioncino, un vecchio GB. No. E Marco Scorpio, vabbè. Ma c'era anche Scorpioncino Nero. No. L'oro è una sorte.